Vi presentiamo ora Eclettica. Le trasmissioni proseguono ora a diffusione regionale. Spettacolo di cartoni animati. Giulio Caperdoni ad aprire la seconda parte di Eclettica dopo che la prima si era chiusa con l'accoppiata prima Adem e poi Radio 4. Adem, e suona strano a dirlo, che rifà in chiave acustica due pezzi miscelandoli di FX Twin. Fa strano sentire FX Twin in acustico. To Cure e Weakling Child, Boy Girl Song, sono queste le due canzoni sommate e acusticizzate, si dirà così, da parte di Eden. E invece è stata Finlandia, la Finlandia di Borko, ad aprire la seconda parte, Ding Dong Kingdom, questo è il titolo del pezzo. Prima di passare al successivo vi voglio ricordare una serie di cose, perché è vero che queste sono le ultime settimane, ma non è detto che in queste ultime settimane magari capiti qualcuno da queste parti per la prima volta, e sarebbe un peccato non dargli tutte le informazioni. La trasmissione, oltre ad andare in onda tutti i giorni fra le 19 e le 20 sulle frequenze di Rock FM, è disponibile anche in podcasting, quindi la differita ve la decidete voi, e poi potete costruirvi una biblioteca digitale da cui andare a pescare, soprattutto dal 31 di maggio in poi, una qualunque delle puntate di Eclettica e ascoltarvela. I dettagli sul podcasting myspace.com/eclettica. Il mio indirizzo, l'indirizzo di Giulio Caperdoni, è giulio@radiorockfm.com. Nel caso vogliate scrivermi direttamente o vogliate iscrivervi alla lista nera, ovvero sia alla mailing list che vi permette di ricevere ogni fine settimana l'elenco delle canzoni, dei film e delle letture che costituiscono la trasmissione. Vi ricordate degli AU, scritto AU, dall'Oregon, di cui qualche mese fa, direi un anno fa, forse esagero, forse il ricordo non è corretto, comunque qualche mese fa ci siamo ascoltati con ben due brani, Sam e Boot. Ora escono, il 26 di giugno per la precisione, su Egu, con un album, l'album d'esordio, dal titolo Verbs. Io ho la possibilità di anticiparvi RR vs. D. We'll be right back. honestly think you ought to sit down calmly, take a stress pill and think things over. Ritorna e convola. Quindi il jazz e il mare hanno tante cose in comune. Quando mai il jazz americano sarebbe arrivato in Europa senza i lussuosi transatlantici della Canard con le loro sfavillanti sale da ballo? Dopo la chiusura del quartiere a luci rosse di New Orleans nel 1917, tante jazz band si trovarono improvvisamente senza lavoro. Molte risalirono il Mississippi suonando sui battelli a ruota ed emigrarono verso il nord. Tante altre, finita la guerra, trovarono lavoro nelle navi di linea che attraversavano l'oceano verso i porti inglesi e francesi per far ballare i ricchi magnati e le loro signore che si imbarcavano per venire a scoprire quell'Europa da dove secoli prima erano partiti i loro antenati deportati per colonizzare una terra nuova, grande e tanto lontana. E accadde che i musicisti, una volta sbarcati, incontrarono i colleghi europei e sicuramente fecero sentire i loro Charleston, One Step e Cakewalk e più di tutto i Foxtrot che avevano messo in repertorio. E si formarono le prime jazz band, nacquero i primi dancing e i Grand Hotel aprirono le loro sale a quella novità che arrivava dall'America. Il jazz, la musica sincopata, fu visto dapprima con diffidenza. Gli appassionati del tango milonga, i ballerini di valzer e quadriglia storsero da principio la bocca, ma presto, vedendo le prime gonne cortissime, le calze di seta lucide, le scarpine décolleté con tacco a fischetto, frangette alla bébé, un turbinio di lunghe collane sotto quei lumi fatti di specchietti che girando lentamente davano la sensazione di stare sotto un cielo stellato, tutti, ragazzi e commendatori, si buttavano in pista per ballare al jazz. Questo era ancora Billie Holiday, Che palle, di Carlo Loffredo. stata esclusivamente Italia negli ultimi minuti, anzi è stata centro Italia, prima Umbria e poi Toscana, in quanto ci siamo ascoltati in sequenza due gruppi di cui già avevo parlato nelle scorse settimane, quindi non mi dilungo in spiegazioni. TV Lumière prima con Mondanità e poi i So con il punto esclamativo, la loro I Hate Candles. E si chiude il volume numero 4 di Eclettica di questa settimana con un disco uscito l'8 di aprile per la Matadore, un EP dal titolo See So, esattamente come il brano che vi faccio ascoltare. Lui proviene da una città che vuol dire tanto per la musica, il cui nome significa tanto per la musica, rock and roll e non solo. Proviene da Memphis e si chiama Jay Retard. Eclettica, ultima stagione, settimana numero 24, volume numero 4, indice, Sound Pool, The Apples in Stereo, Tokyo Police Club, Adem, Radio 4, Borco, AU, TV Lumière, So, Jay Retard. Cari amici, il vostro programma è terminato. Vi diamo appuntamento a domani alla stessa ora. Cari amici, il vostro programma è terminato. Arrivederci.